Itake des mamovo reite dos eu peito non é marapian de sanar contraito. Itake des mamovo reite dos eu peito non é marapian de sanar contraito. Itake des mamovo reite dos eu peito non é marapian de sanar contraito. Itake des mamovo reite dos eu peito non é marapian. Ena sahi grenche lugo grande pia dosso Ornamo cerche ami ato geito O mai stesse corte te mandre e cogeito Sures manos assis in cogelam Quedam per cambodos ombros todas en la trelam Eos carcañales venis en el reito Sem meterlo a todos nor cubo no treito Torno sa Santa Maria a non brei la ghinia Roma dolce che in un canta se rispetto Se si raffezzella mai se si capetta Che fare tesse, se non che fertessa, sì perché se da morresse Ero cosa fezza, levare un vecchio Ante sai in legge, becchi ne estrega Già sento fes mi va una vira Rones che giove merse E ha signor complira E non meste cosa mori Ando un getto Nasta festa grande Come vostra detto Se fes metter na chileggia de Santa Analia Mai se santo virgen non ha un completo Mai se torno il corpo todo es correto Simi deli già si allava Ven come una della Noi se caudio teto Quando se steria O nel vio vai gente de gente estando va en da que esté horrible de ripocho holanda vieron que mi rata fue bien trayecto por venderlo a lo una pinche de fe Peito, non è maravilla de sanar contraito Tacche Deus mamovo, rei te do sin peito Non è maravilla de sanar contraito We'll be right back. Thank you.